GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Nel Milan, che stasera scende in campo a San Siro contro i tedeschi del Wolfsburg in Coppa UEFA, e mistero sulle condizioni fisiche di Kakà. Per l'amministratore delegato rossonero Galliani, il brasiliano è affetto da pubalgia e i tempi di recupero restano incerti. Ipotesi però clamorosamente smentita dal tecnico Ancelotti. Non è una pubalgia. Io penso che Kakà possa giocare domenica. Il sacrificio non è che deve essere tirato fuori solo in questi momenti qua, il sacrificio è una costante di quello che deve pensare una squadra per cercare di fare le cose per bene. Milan e Wolfsburg, già qualificate, si giocano il primo posto nel gruppo E. Ancelotti vuole una reazione dopo il KO di Torino con la Juventus. La partita di Torino ha evidenziato determinati errori fatti, e quindi la partita servirà anche per cercare di limitare questi errori. Manca solidità e quindi la difesa tante volte si trova scoperta e questo poi evidenzia gli errori che poi si fanno. Insomma, non credo che non è mai una responsabilità di un reparto solo. In questo momento c'è poca copertura e poca solidità della squadra. E domani sempre per la UEFA in campo Sampdoria, Siviglia e NEC Nimega Udinese. In casa Inter, Moratti a Sky Sport sembra dare un'altra possibilità ad Adriano, già in Brasile dopo infortuni e notti brave. L'augurio che guarisca velocemente da questo suo stiramento e quindi che torni a fare quello che deve e può fare con noi. Nell'Inter. Senza dubbio. Oggi in campo anche Roma-Bologna e Fiorentina-Torino per gli ottavi di Coppa Italia. Spalletti spiega così il buon momento dei giallorossi. I ragazzi si sono rimboccati le maniche, qualcuno ha fatto gli straordinari e poi c'è stata la crescita sotto l'aspetto dello spirito che è fondamentale. Poi se si riesce a creare questa magia nella squadra diventa tutto più facile per portare a casa quelli che sono gli episodi durante le partite. Il tecnico bolognese Mihajlovic polemizza con l'ex compagno di squadra Totti. Quando devo fare partita da Dio, praticamente l'ho chiamato e mi ha assicurato di venire. Io lo consideravo mio amico, poi dopo quando doveva venire, 3-4 giorni prima, che lo chiamavo non rispondeva al telefono, così poi dopo è andato a fare un'altra partita, penso a Napoli, non è venuto a partita mia e sono rimasto male. Da quella volta là gli ho tolto il saluto, ecco, perché è una cosa di rispetto. L'allenatore Viola Prandelli punta a fare parecchia strada nel torneo. Ci teniamo, secondo me è una competizione molto interessante, visto e considerato che quando si arriva alla fine tutti vorrebbero vincerla, ma per vincerla bisogna andare avanti e vuol dire andare in campo con la voglia di fare la gara. Intanto la regina ha scelto il nuovo allenatore, esonerato Orlando, al suo posto Pillon. E salta anche la panchina di Modena nella A1 di pallavolo. Per gli emiliani via Andrea Giani, al suo posto arriva Emanuele Zanini. Per il basket, ottava giornata di Eurolega con Siena in trasferta a Barcellona e Milano che ospita il Partizan Belgrado. Chiudiamo con la Formula 1, test Ferrari a Portimão in Portogallo. Il parere del collaudatore Luca Badoer sulle nuove regole varate per il 2009 per contenere i costi. È stato fatto un grosso cambiamento per la Formula 1 e c'è bisogno di un po' di adattamento. Spero che comunque tutti questi sacrifici siano fatti perché si è fatto qualcosa di buono per la Formula 1. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.